Buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati a 42 La Risposta. Oggi siamo Silvia e Maria. Ciao, ciao a tutti. Ciao, oggi a Bologna è tornato il freddo ed è ritornato il raffreddore. Sono ritornate le nostre voci basse, un po' sensuali quasi. Bellissima infatti Silvia. Bentornate, bentornati. Oggi vorremmo parlarvi di un libro veramente bellissimo che si intitola La bastarda della Carolina di Dorothy Allison. Ed è veramente una grande riscoperta perché non è mai stato tradotto fino ad ora in Italia e invece quest'anno vede appunto questa primissima traduzione in italiano dopo tutti questi anni. Questo libro, ricordiamolo, è il primo romanzo della scrittrice e arriva in Italia, pensate, appunto 26 anni dopo la sua pubblicazione. È un libro, ve lo diciamo subito, veramente forte, crudo, direi lacerante perché davvero molto violento, però va letto. Perché, come dice l'autrice nella postfazione, questa storia può dare un senso a ciò che un senso non ha. Ed è un po' la costante un po' di tutti i libri di Dorothy Allison. No, lei ha scritto tutti questi libri così forti, così violenti. Ricordiamo, lei ha scritto molta poesia, ha scritto raccolte di racconti. Mm-hmm. Oltre a questo che è il primo dei due unici suoi romanzi. Maria, ti confesso che aspettavo questo libro da almeno 15 anni. 15 anni fa infatti avevo scoperto l'altro suo libro che si intitola appunto Trash, che è una raccolta di racconti. E questo è stato per tanto tempo l'unico libro di Dorothy Allison tradotto in italiano. Quindi aspettavamo con ansia questa pubblicazione, questa traduzione. Si va letto assolutamente e invece incredibilmente in America ha trovato ostacoli di ogni tipo, resistenze, censura. Pensate che è stato vietato in moltissime biblioteche scolastiche, ne è stata vietata la lettura. Ed è forse anche per questo motivo che è stato tradotto in Italia dopo 26 anni, perché ha avuto tutta questa storia travagliata negli Stati Uniti e quindi... Ecco, figuriamoci nell'Italia, se è puritana l'America, figuriamoci. Esatto. Dicevamo appunto di tutte queste resistenze e censure, fino ad arrivare addirittura al licenziamento di un insegnante che lo aveva proposto come lettura per la sua classe, per parlare della violenza nascosta nelle piccole comunità. Diciamo che parlare di alcuni argomenti ed alcune tematiche, insomma, è sempre stato difficile, a volte pare un tabù e lo è tuttora purtroppo. Insomma, sembra sempre che la violenza vada un po' tenuta in casa. Sì, perché se non ne parliamo, no? Se non ne parliamo non esiste. Esiste. Esatto. Leggendo questo libro invece poi troviamo il potere proprio rivoluzionario della parola. Torna tante volte in tutti gli altri suoi libri e non solo in tutti i suoi libri ma anche in altri libri di cui vi parleremo nel corso di quest'anno di 42 La Risposta. Magari vi parliamo di Margaret Atwood, magari vi parliamo di Audre Lorde, insomma, vediamo. Sicuramente, si capisce che è un punto che ci sta a cuore, moltissimo. In questo romanzo Dorothy Allison parla qui. Quindi, no, di violenza, e lo fa entrando davvero a fondo nella psicologia dei personaggi, in particolare della protagonista. Ci getta, diciamo, davanti agli occhi proprio un orrore senza alcun filtro. Alla fine della lettura sicuramente ci si sente scossi, ma soprattutto molto arrabbiati. La protagonista è una ragazzina, una bambina che poi diventa adolescente, Bonne, illegittima sul certificato di nascita, appunto la bastarda del titolo. Esatto. Perché di padre ignoto. Sì, in realtà suo padre è fuggito. Lascia la madre, questa madre proprio non può sopportare quel bastardo, appunto non le va giù. Vuole che sua figlia non venga considerata tale. Appunto per anni la vediamo sfidare, per esempio gli impiegati dell'anagrafe, decisa a far cambiare il certificato di nascita della piccola Bonne. La vediamo insomma, non vuole arrendersi proprio a questa etichetta di bastarda. Finché l'anagrafe non va in fiamme. Esatto. leggiamo un pezzo. Nonna diceva che quella questione non aveva alcuna importanza. A chi poteva interessare cosa c'era scritto? La gente forse legge registri? Ti chiedono il certificato di nascita prima di sedersi con te in veranda? A nonna non importava, ma a mamma sì. Mamma odiava essere trattata da feccia. Odiava il ricordo di tutti i giorni che aveva trascorso piegata nei campi di arachidi e fragole, mentre quelli se ne stavano belli dritti e la guardavano come fosse una pietra in mezzo all'erba. Il timbro sul certificato di nascita bruciava come il marchio che avevano sempre cercato di imprimerle a fuoco, incapace, pigra, stupida. Il disprezzo borghese che sentiamo in questa lettura verso la famiglia di Bone, i Boatwright, è il disprezzo che la stessa scrittrice, la Alison, ha vissuto su se stessa. Lei, figlia bastarda di una donna bianca disperatamente povera. White trash, spazzatura bianca. Esattamente, prima vi dicevo che avevo adorato quella raccolta di racconti di Dorothy Allison, appunto si chiamava Trash, e in quel libro e anche in quest'altro, in tutti i suoi libri, i protagonisti sono appunto i cosiddetti white trash, i poveri bianchi del sud degli Stati Uniti. Sono spesso violenti, incestuosi, alcolizzati, mangiano male e soprattutto grasso. Vabbè, siamo nel sud degli Stati Uniti, c'è una cucina molto, molto pesante. E se andiamo anche a leggere banalmente su Wikipedia, leggiamo la definizione: gente che perde tutto quel poco che ha, per esempio, nell'acquisto inutile di un'automobile. E lo vediamo in Trash, lo vediamo anche in questo meraviglioso libro. E la vergogna, diciamo, che si sente ad essere oggetto di discriminazione, di disprezzo, di odio, ad appartenere, diciamo, a questa, tra virgolette, feccia, e la stessa vergogna che Alison ha provato da ragazzina. Lei stessa dirà: la vergogna era il tema costante della mia infanzia. Questa vergogna crea a sua volta un altro tabù, no? Cioè non parlare della propria vita, delle proprie vergognose origini. Invece lei lo fa e racconta una storia di violenze e abusi che ha, che in qualche modo la sua storia. Sì, lei lo fa appunto, come dicevi tu prima, White Trash era il marchio che era stato a sua volta affibbiato alla sua famiglia, e la sua famiglia erano un po', cioè, la vediamo rispecchiata nella famiglia del libro, i Boatwright, che sembrano appunto incarnare sia lo stereotipo di questi bianchi poveri dalle vite difficili, turbolente. Pensiamo, gli zii entrano e escono dal carcere, sono spesso ubriachi e violenti. Le donne della famiglia sono spesso incinte, trascurate, hanno anche spesso dei lineamenti sgradevoli come arati, sembrano, mi ricordo una canzone degli U2, arati da tanta sofferenza, soprusi, insoddisfazioni. Sanno, questi volti ce li immaginiamo, hanno volti stanchi, e mi torna, infatti, non sempre per ritornare all'altro libro, però mi viene in mente il titolo di uno dei racconti di Trash: La violenza contro le donne comincia in casa. Sì, Bianca, Maria, mi sto incuriosendo molto, me lo dovrai prestare questo libro. Se lo, ecco, volentieri, grazie. Te lo presto. Comunque, nonostante tutto questo, l'infanzia di Bone è un'infanzia felice, un'infanzia che scorre tra la casa della nonna, degli zii, delle zie, tutte con veranda e sedia a dondolo. Rigorosamente siamo nel sud degli Stati Uniti, nel nostro immaginario è veranda, sedia a dondolo, esatto, campi. E sono case piene di vita, di calore, spessissimo di musica. Nel libro vengono citati un sacco di pezzi country che erano la colonna sonora costante delle loro vite. Il mondo che risuonava alla radio era immenso e distante, non ci sfiorava nemmeno. La nostra vita si svolgeva su una veranda o sull'altra per tutta l'estate. Mentre ridevamo di Little Earl, scherzavamo coi maschi e pulivamo i fagiolini, ascoltando i racconti, la dolce melodia dei grilli. Quando penso a quell'estate, a quando dormivo dalle mie zie a casa mia, al profumo del collo di mia madre quando si chinava per stringerci al buio, al suono della risata di Little Earl e al rumore del tabacco di nonna che atterrava sul terreno arido, alla musica country che risuonava leggera dappertutto, che apparteneva alla sera quanto i grilli e la luce della luna, mi sento di nuovo al sicuro. Nessun luogo mi è mai sembrato tanto dolce e sereno. Nessun luogo mi è più sembrato casa. Scusate la voce. No, è bellissima invece. Insomma, è una famiglia che viene guardata dall'alto in basso un po' da tutta la comunità e in particolare dalla famiglia di Glenn, uomo che Annie a un certo punto del libro sposa, appartenente alla famiglia dei Waddle, famiglia borghese in cui tutti hanno casa col giardino, l'auto nel cortile, hanno lavori degni, no? Non sicuramente un white trash. Esatto. I Boatwright al contrario hanno sempre lavori precari, conoscono un po' l'arte della arrangiarsi, anche le donne devono lavorare perché è necessario mettere insieme i soldi per vivere. E la famiglia dei Waddle, diciamo, per loro è un'onta quella di essersi imparentati con i white trash. Appunto. La feccia. Nella famiglia di papà Glenn le donne restavano a casa. Sua madre non aveva mai lavorato e Daryl e James parlavano malissimo delle donne che lasciavano i figli per andare a lavorare fuori casa. Bene, Silvia, io mi fermerei a questo punto per ascoltare un po' di musica. Cosa abbiamo scelto oggi? Chi ci accompagna in questo viaggio negli Stati Uniti? Ecco, pensavamo a US Girls, che è una cantautrice che ha suonato anche di recente a maggio a Bologna. Noi l'abbiamo ascoltata. Esatto. E ci è piaciuta molto. Ci sembra perfetta per questa puntata perché tutti i suoi testi parlano appunto di violenza sulle donne, contro le donne, ma anche reazione a questa violenza, presa di parola, volontà di ribellarsi. Lo vediamo in tutte le sue canzoni, quindi facciamo partire il primo pezzo, Velvet for Sale. Bentornati e bentornati a 42 La Risposta, in compagnia di US Girls e soprattutto del romanzo La Bastarda della Carolina di Dorothy Ellison. Si tratta di un romanzo semi-autobiografico, narra la storia della bambina e poi adolescente Bonne, degli abusi e delle violenze subite da parte del patrigno e più in generale della condizione dei white trash, la spazzatura bianca della Carolina del sud degli Stati Uniti in generale. Papà Glenn, come lei chiama il patrigno, mette di fatto fine alla sua infanzia felice e inizia per lei un calvario di violenze fisiche e psicologiche che sono riservate solo a lei, perché sua madre, sua sorella non saranno mai toccate. Lei, come spesso, troppo spesso accade, sente un profondo senso di colpa, soprattutto si disprezza, si autocolpevolizza quasi. Cercai di ricordare quando era cominciato tutto. Cosa avevo fatto? Perché mi aveva sempre odiata? Forse ero una ragazza cattiva, maligna, disgustosa, testarda, stupida, brutta. Proprio come diceva lui. Il senso di colpa e il disprezzo per se stessa crescono man mano che le violenze si fanno più crudeli, più rabbiose, impreviste. Sua madre, che conosce in parte quello che lei subisce, è perennemente combattuta tra l'amore per quest'uomo, no? Per il padre che voleva per le sue figlie, e l'amore per Bonne. Ed è attaccata fortemente al desiderio che tutti tutto vada come lei ha sempre desiderato, no? E che è una cosa che invece non, palesemente non accade. Non accade, e poi tra l'altro la vediamo che ha questo istinto a giustificare quell'uomo in mille modi. Suo padre lo disprezza perché non è come i suoi fratelli. Oltre ad aver sposato Annie, Glenn non riesce a tenere un lavoro per più di qualche mese. Lui vorrebbe garantire il benessere alla famiglia, non ce la fa, ma continua a comprenderlo. Bisogna comprenderlo, compatirlo e soprattutto mai, mai farlo arrabbiare. C'è una battuta in cui dice: cercate di stare in silenzio quando torna a casa, stategli lontano, lasciatelo riposare, no? Dice alle figlie. Ed è significativo che la prima volta che assiste di fatto a una di queste violenze, mentre l'abbraccia, appunto, le dica: piccola, oh piccola mia, tesoro, piccola, che hai fatto? Che hai fatto? Che avevo fatto? Correvo in casa. Cosa mi stava chiedendo? Ma si vede l'incredulità di Bone, che dice: esatto. Ma mi sta chiedendo se ho colpa di questa cosa. Sì, la colpa che ricade sempre, esatto, su di lei, sia in modo auto, appunto, colpevolizzante, sia proprio chiaramente il padre le dà la colpa. Esatto. La sensazione che si ha leggendo questo libro è che questo le faccia più male forse delle botte di Glenn, della violenza di Glenn. Cioè il fatto che sua madre accetti quello che il patrigno le fa, il perdono che sempre gli viene concesso, le seconde, terze, quarte possibilità. Esatto. E infatti Annie rifiuta di vedere, rifiuta di accettare ciò che le accade sotto gli occhi, perché probabilmente, anzi no, lo sappiamo, sarebbe una verità troppo mostruosa e inaccettabile. Infatti credo, Silvia, che alla fine questo libro sia, dopo tutto, un libro sulla perdita, soprattutto sulla perdita della madre, che lei amava tantissimo, che in qualche modo, in un capovolgimento di ruoli, lei cerca sempre di proteggere. Il suo viso sembrava vecchio, vecchissimo e stanco. Mi sentì stringere il cuore nel vederla in quelle condizioni. Non potevo farla soffrire, non potevo. Mi dispiace, mormorai. E in un'altra parte del libro leggiamo: mi avrebbe fatto vedere quanto aveva sofferto quando mamma l'aveva lasciato solo nel parcheggio, e avremmo saputo entrambi perché mi picchiava. Invece mamma non l'avrebbe saputo mai. Ero molto più terrorizzata di far male a lei che di ciò che sarebbe accaduto a me. Per cui avrei fatto in modo che non sapesse nulla, con una determinazione ben più forte di quella di Glenn. Incredibile la forza che vediamo in questa bambina, la forza e la volontà di proteggere sua madre. Però contemporaneamente in lei crescono rabbia, odio, desiderio di uccidere Glenn, tanto che in qualche punto lei si chiede se sia cattiva, no? Perché arriva a odiarlo, a volerlo uccidere. O di vederlo ucciso. Esatto. Cantare mi impediva di piangere. Cantare mi dava la forza per continuare a camminare. Lo spirito malvagio che aveva preso possesso di me veniva fuori grazie al canto e al movimento. Mi sentivo piena d'odio, ma forte, cattiva, ma potente. Sì, a un certo punto arriva la decisione di non tornare più a vivere con lui, in una delle tante volte in cui la madre, appunto, lo lascia, a costo anche di rinunciare a lei, perché sa che lei lo perdonerà, che tornerà da lui, ma lei in quel momento prende la decisione che non sarebbe tornata più con lui. Dopo ci sarà la violenza più brutale, l'ultima, no? Quella che a fine del libro, e questa sarà forse quella che farà più male, anche perché sua madre, anche a quel punto, in qualche modo decide di lasciare Bone per proteggere quest'uomo. Sì, e poi ricordiamo, proteggerlo non ovviamente dalla polizia, che sarebbe impensabile chiamare in quel contesto. La giustizia è tutta interna alla famiglia in questo contesto sociale. Nessuno denuncia, nessuno immagina o osa denunciare. Sono gli zii di Bone, infatti, che gli danno la caccia, che giurano vendetta per lei. Beh, Silvia, io lancerei un secondo pezzo. Ci ascoltiamo Dumbed Pally, sempre della fantastica US Girls. Speriamo vi piaccia. Bentornate e bentornati in studio, 42 la risposta, siamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko, siamo Silvia Maria e vi stiamo parlando di un libro bellissimo, La bastarda della Carolina di Dorothy Ellison, e siamo più o meno a conclusione di questa puntata. Maria, a inizio dell'anno dicevamo, in quella prima puntata iniziale, che ci promettevamo insomma di, con le nostre puntate, con i libri di cui volevamo parlarvi quest'anno, di dare spazio alla ricerca di ossigeno. Ecco. Sì, sembra. Forse che questo libro non sembra, ne abbia, sembra. Però solo in apparenza non ne sì, ha, no? Perché sembra, abbiamo parlato di violenza, di paura, di incapacità di denunciare, autocolpevolizzazione, però esatto. Dov'è questo ossigeno che però, vi abbiamo promesso? Però questo romanzo, abbiamo detto, è la storia anche un po' della Ellison, no? Che sottolinea che non è autobiografico, però in qualche modo sappiamo che è la sua storia, e la storia in realtà però non di una vittima, ma di una sopravvissuta. La Ellison stessa si definisce così, sopravvissuta, ed è un concetto interessante quello di distinguere, no? Vittime e sopravvissute della violenza, esatto, dell'uomo. È un concetto che si sviluppa già nel femminismo degli anni 70, in ambienti femministi. E ricordiamo, è anche un termine chiave in tutta l'opera di Audre Lorde, sia quella saggistica che quella poetica. Ricordi, Maria, quella poesia bellissima? Si intitola Litania della sopravvivenza. Sì. È bellissima, si legge in quella poesia: ma quando stiamo zitte, anche allora abbiamo paura, perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che sopravvivessimo. Definire le donne che hanno subito violenza vittime, infatti, le qualifica come deboli, da compatire, no? E soprattutto votate al silenzio. Invece, scegliere di parlare, di avere un ruolo attivo, fa della donna abusata una sopravvissuta, che si ribella al silenzio che le viene imposto, prende la parola, si rende così di nuovo padrona della propria vita. Per Dorothy Ellison, appunto, è lo stesso atto del raccontare, il modo per attuare quel cambiamento, quel cambiamento rivoluzionario, quel sovvertimento dei ruoli di vittima, carnefice. È un modo per affermare con forza quello che segna il discrimine, appunto, tra essere vittima che subisce, tace, sopravvissuta che accusa. Lo dicevamo prima, il potere della parola, della narrazione, anzi io direi, dicevamo prima Audre Lorde e tante altre, diremmo la presa di parola e l'autonarrazione. Infatti lei, quando decide di prendere la parola, giura al suo patrigno che non potrà più farle del male, perché lei appunto non è più dominata dalla vergogna, e diventa poi femminista militante, attivista per i diritti civili. Insomma, ci insegna questo libro che si può riemergere da qualunque luogo oscuro, no? E lo si fa cercando di dare un senso a quello che in realtà un senso non ha. Quindi vi consigliamo di riscoprirlo, come abbiamo fatto in questa puntata. Non perdetevelo, proprio ci sono tanti libri che escono, insomma distinguiamo anche quello che proprio vale la pena di riscoprire, anche così dopo tanto tempo, dopo 26 anni, e scusate un po' l'ossessione personale, ma a questo punto sì, lo so Maria, sono lo so monotematica, dire, ma riscopritevi anche Trash, forse al momento non è poi così facile trovarlo in libreria, sicuramente in biblioteca c'è, magari ci auguriamo che venga anche questo ripubblicato, perché è veramente molto attuale, molto, molto importante leggerlo. Quindi vi salutiamo e vi facciamo ascoltare l'ultimo pezzo, si intitola Mademoiselle, sempre ricordiamo di US Girls. In questo caso in particolare vi consiglio di vedervi il video, perché si vede proprio una donna che si ribella a tutto, sia alla guerra sia alla violenza maschile sulle donne. Prende parola anche in modo molto ironico, molto sarcastico, molto divertente. E personalmente, dopo che avete visto il video, vi consiglio di rifare il balletto che lei fa. Quando vedete il video capirete.